Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Oggi è lunedì 2 gennaio, ma come non farci gli auguri insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ciao Gianluca Codognato. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, intanto spero che tu abbia passato bene questo ultimo dell'anno, anche perché di questo un po' parliamo, no? Sì, noi come Adico abbiamo effettuato una consueta indagine che svolgiamo attraverso i nostri soci. Abbiamo sentito più di 200 persone, abbiamo coinvolto più di 200 persone, e chiaramente non ha finalità prettamente statistiche, però la nostra indagine dà come sempre dei trend che poi insomma sono ampiamente consolidati. Abbiamo potuto constatare, come d'altronde anche come è successo negli anni passati, una gran parte di persone, diciamo due persone su tre, due famiglie su tre, faranno il cenone a casa o a casa di amici o a casa propria, proprio perché chiaramente per comodità, anche perché chiaramente un cenone fra le mura domestiche è decisamente più economico di un cenone in ristorante. Però abbiamo anche constatato che c'è anche un leggero aumento, un 4% di persone invece che hanno deciso di andare a mangiare proprio in ristorante, e in questo caso però abbiamo confermato come la stragrande maggioranza delle persone coinvolte starà molto attenta comunque al proprio budget per la cena in ristorante. Solitamente diciamo che le persone non vogliono spendere più di una cifra compresa tra i 50 e i 60 euro a persona. Noi abbiamo anche monitorato un po' di ristoranti della nostra zona, abbiamo constatato che per l'80% di quelli che abbiamo potuto sentire, l'80% di quelli che abbiamo sentito sono tutto esaurito, quindi diciamo che c'è un buon numero di persone comunque che mangiano al ristorante. E i prezzi, tra l'altro Francesco, possono variare, sappiamo benissimo, sì, appunto tra i 50 euro e arriviamo anche a cifre attorno ai 140-150 euro a persona, chiaramente quando si tratta di pesce, di ristoranti magari di pesce, sì, abbastanza rinomati. O che magari però hanno anche dell'intrattenimento a seguire, no? O con l'intrattenimento, anche se ti dirò la verità che tra tutti appunto i ristoranti che abbiamo sentito, diciamo che la stragrande maggioranza propone comunque un piccolo intrattenimento o comunque propone chiaramente offrono alla fine della cena la bottiglia di vino, il dolce, insomma c'è sempre qualcosa di particolare per la cena di San Silvestro, per il cenone di San Silvestro. Quindi diciamo che in linea di massima riscontriamo alcuni miglioramenti proprio appunto per l'aumento delle prenotazioni di ristorante, ma anche perché registriamo un aumento sempre di pochi punti percentuali del numero di persone che invece in vacanza sarà via per questi giorni insomma di Capodanno. Le mete preferite sono un po' le solite, diciamo, le città italiane. Qualcuno andrà in montagna sperando ovviamente che ci sia un po' più di neve di quella che si è vista a Natale. Qualcuno sceglie anche qualche capitale europea, mentre qualcuno, ma diciamo la minoranza più fortunati, invece vanno proprio al caldo con particolare interesse per Maldive o Dubai o mete di questo tipo. Caraibi, ecco, e quant'altro. Vabbè, esatto. Certo che è che comunque le nostre montagne, anche se non hanno la neve, hanno le piste innevate, perché siamo una delle nazioni, credo, che ha i migliori costruttori di cannoni sparaneve. Quindi te lo posso confermare, perché a Natale io ho potuto vedere, andando via, ecco, qualche giorno, che effettivamente le piste erano innevate, sì, ma solo grazie alla neve sparata appunto dai cannoni. Ecco, sì. Io come padre di alcuni bambini devo dire che secondo me manca un'offerta proprio per chi ha parecchi bambini e vorrebbe in qualche modo gestirseli per la notte di Capodanno senza spendere un patrimonio. E ecco, la lancio così, la butto lì, magari qualcuno ci ascolta e l'anno prossimo provvederà a questa segnalazione. Sì, hai ragione, anche se devo dire che con il tempo alcune offerte, magari soprattutto di alcuni alberghi, stanno anche molto attenti insomma a dare qualcosa anche ai bambini, manca qualcosa a Capodanno effettivamente. Abbiamo potuto constatare magari anche per il periodo natalizio che soprattutto certi alberghi cercano appunto di essere kid friendly, insomma di avere almeno un'animazione, anche per lasciare un po' magari tranquilli i genitori. Grazie quindi all'Adico, a te Gianluca, per essere stato con noi anche in questo 2 gennaio, che insomma c'è sempre qualcuno che lavora anche nei giorni vicino alle feste. Ci risentiamo con l'Adico per un nuovo appuntamento tra qualche giorno. Intanto vi ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie Gianluca. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.